Ma insomma, che sigla meravigliosa. Con queste atmosfere medievali. Esatto, qui al castello oggi festa, festa grande al castello. Si ricongiungono gli affetti stabili provenienti da una lontana Frittole, oggi arrivati ancora prima, qualche secolo prima, credo, del No, 1005. infatti c'è un buco temporale che ci fa trovare tutti qui al castello. In un modo o nell'altro, prima o poi qualcuno appare miracolosamente per qualche diretta. Il buco spazio-temporale era uno sketch vecchio di Mai dire gol, famosissimo. Beh, ma la nostra è realtà. Si sa che al castello si palesano persone così, Questa volta all'improvviso. volano dalla Val di Susa, il Camicia arriva qui con la Eccolo dama e il Camicia, gringo. grande Camicia, salutiamolo. Evviva, evviva, evviva. Ci siamo riuniti, siamo più forti che mai per nuove dirette. Chissà quanto staremo ancora a fare le dirette del martedì. Boh. No, non lo so, del martedì io credo fino a oggi, perché della prossima settimana saranno al lunedì. Allora, benvenuti all'ultima puntata delle dirette speciali del martedì dal castello. Dalla prossima settimana c'è subito il primo scoop. Sarà il lunedì la nostra, però Wombat continuerà a regalarvi grande emozione tutti i giorni, sempre dalle 7 alle 9, sempre sulle frequenze, sempre sul blog, su cose che già sapete. Esatto. A meno che voi non ci diciate che dalle 7 alle 9 per voi non è più un buon orario, vista tutta la luce, il sole e la meraviglia che c'è. Se volete che posticipiamo, ce lo dite e noi cercheremo di esaudire i vostri desideri. Scriveteci adesso nel pad. Come si fa a trovare il pad? Eccolo, c'è Mario, salutiamo Mario che è Ciao comparso là Mario, nel pad. diciamo wombat.noblogs.org, seguite il link che vi porterà al pad per scriverci in diretta. E vediamo, facci sapere Mario se ci stai ascoltando e se ci stai ascoltando dici anche i volumi, così insomma evitiamo adesso di riascoltare in ritardo di 30 secondi dal cellulare. No, io sono stracontento di questa reunion, tanto siamo tutti positivi nel senso di morale. Noi siamo tutti positivi E ottimisti, e no? Tampone non l'abbiamo fatto, ma siamo positivi. ottimisti. Abbiamo un morale altissimo. Io sono anche quasi emozionata perché, insomma, dopo mesi e mesi senza di te, Camicia, trovarci. Tra l'altro, poi a fare una cosa che per te, insomma, è la consuetudine del martedì sera, ma per me, gringo, è una cosa nuova. Cioè, oltre Radio Contado, non siamo mai andati. Esatto, noi siamo dei novellini della diretta speciale. Tanto è l'entusiasmo vostro quanto il peso specifico della lacrimuccia mia a ricordarmi che le altre dirette le facevo con la bellissima Carmine, Oh, che adesso certo. sta mungendo, e quindi la salutiamo a lei ancora lì in quel bella Val di Susa Ciao a Carmine, prendere il fresco. ci manchi. Insomma, oggi parleremo un sacco di cose, però direi di non anticiparle, magari le diciamo dopo questo primo brano. Ed è subito un Passo grande dopo brano. passo. Un grande brano di qualità subito perché per la prima volta nella storia di questa trasmissione è arrivata. Abbiamo deciso di presentare al pubblico il nuovo, anzi, primo album di Eva Marrone. Attenzione, qua dovrei anche averceli. Il primissimo album, quindi cioè, insomma è una cosa proprio nuova, nuovissima per tutti. Si sentono gli applausi? Sì, si sente. Sì. Regala So, emozioni, regala regala emozioni. emozioni e il nuovo album che uscirà quindi, dicevo, domani l'altro e oggi potete ascoltare in anteprima. Quindi andiamo subito con la prima che è Amanda Knox dall'album Coniglietti Rosa o Coniglietti Rosa. Buon ascolto. Thank you. mostrare come luccica il mio nuovo fisico bestiale. Quest'estate anch'io la voglio, la brodatura da chirurgo, mascherina con boccaglio fatta in pelo di coniglio, con la marca nel cortiglio. La piscina non la voglio, voglio solamente il meglio, faccio il bagno nel mio bagno. Rieccoci dopo aver sentito questo brano inedito, nuovissimo. Ma a domani hai detto che esce? Doman l'altro. Quindi accorrete. Ma dove esce? Esce su tutte le piattaforme digitali del mondo, credo fondamentalmente su Bandcamp inizialmente, poi chiederemo ai produttori di dirci bene dove. Bene, allora magari nelle prossime puntate vi daremo anche questa informazione. E veniamo a noi. Di che vogliamo parlare oggi? Di tante cose, no? Ci stanno voci dal nord al sud, contraddizioni, molto contraddizioni, pedalate o non pedalate. Sì, sì, puntata molto molto densa quella di oggi e... Se non sbaglio, la regia mi sta dicendo che c'è una poesia da... C'è subito una poesia che, attenzione, ci dice Mario Perfetti addirittura, per mai successo che i volumi fossero comunque, perfetti. Grazie Mario. Grazie Mario, volevo dire anche che il sottofondo musicale che c'era all'inizio non era a caso, era un sottofondo medievale perché siamo al castello, no? Cioè, esatto. C'è ancora in realtà. Abbiamo aperto la porta, quindi ora lo dovreste sentire. Sono giù nella corte, cioè, qui dovete sapere che mentre noi facciamo le dirette fuori danzano, vabbè, balli medievali tutto il giorno. C'è sempre festa al castello. Festa al castello, ello! Comunque un appunto sui brani dell'album Coniglietti Rosa, sono tutti in tema quarantena perché composti in questi due mesi. Beh, hanno preso ispirazione da, esatto, giusto, voglio dire, le emozioni, alle sensazioni, cioè... momento. Non ci piace così, ci piace. Cara dama, ma ce la vuoi leggere te questo passo di Mariangela Gualtieri che già fu letta diverse puntate fa, ma è così bello che lo rileggiamo. Allora lo rileggiamo. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Andava fatto insieme, rallentare la corsa. Ma non ci riuscivamo, non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. Adesso siamo a casa. Guardare di più il cielo, tingere d'ocra un morto, fare per la prima volta il pane, guardare bene una faccia, cantare piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta stringere con la mano un'altra mano, sentire forte l'intesa. Che siamo insieme, un organismo solo. Tutta la specie la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo. A quella stretta, di un palmo col palmo di qualcuno, a quel semplice atto che ci è interdetto ora, noi torneremo con una comprensione dilatata. Saremo qui, più attenti, credo. Più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita. Adesso lo sappiamo quanto è triste stare lontani un metro. Grandissima Mariangela. è per quello che noi al castello gnafamo, qualcuno deve passare. Esatto. Però sì, penso in realtà che tanti se ne siano già dimenticati di quanto fa male stare lontano un metro, così come tante tanti dell'assù si sono già dimenticati di tante belle parole di questi mesi, no? Riguardo ai bei propositi per un futuro migliore, e sta tutto troppo velocemente tornando alla normalità, è un po' questo il tema di questi giorni. Questa normalità che forse all'inizio ci dicevamo anche che non è che vorremmo proprio tutto tornasse come prima, ma già che ci siamo qualche miglioria si poteva fare. Però è così in un attimo, non basta un semplice calo statistico di numeri per far dimenticare i due mesi trascorsi, ma non tanto i due mesi trascorsi dal punto di vista sentimentale, emotivo, emozionale delle persone, proprio delle promesse o dei pensieri con senso che c'erano magari per un rinnovo e una ripartenza un po' più critica, mi viene da dire. Sì, diciamo, diamo un dato, vai, purtroppo dobbiamo dirlo, siamo quinti. Ragazzi, siamo quinti ormai. Esatto, siamo... Ormai siamo quinti nelle classificone delle dirette del martedì dal castello. Sapete che ogni giorno si scorrono i numeri dei casi di coronavirus, percentuali, eccetera, in tutto il mondo. Come sapete, gli Stati Uniti continuano a primeggiare assoluti perché vogliono veramente sempre vincere tutto, con 1.392.000 casi, ovviamente no, questi non sono relativi, non sono numeri in percentuale ma numeri assoluti. Però la Cina, che è più grande di popolazione e di estensione, appunto gli Stati Uniti sono più piccoli della Cina rispetto a numero e estensione, l'hanno sono rimasti parecchio. Noi ci eravamo troppo abituati ad essere i primi nelle classifiche negative, non è più così. E non è più così, ma manteniamo comunque il quinto posto sopra la Francia. Ma vieni, quindi, dai! Quindi questa soddisfazione ce la teniamo. Ma l'importante è essere, insomma, fra i primi in Europa, poi il resto chi se ne frega. Hai ragione, ma anche lì ci stanno scalzando, perché secondo la Spagna, terza Russia, che sta andando a 2000 con 10.800 nuovi casi in un giorno, che sono quelli che per un mese hanno detto noi, coronavirus, sì, e alla fine Zec, l'Inghilterra idem, è al quarto posto, quindi l'Italia ormai comincia a non fare più notizia, ma infatti noi siamo già... questo bellissimo limbo della fase 2, no? In cui si cerca di capire che cosa si debba fare e che cosa succederà, ma in realtà secondo me sono un po' tutti in attesa già di una fase 3, perché questa fase 2 secondo me è un po' né carne né pesce. E la fase 2 rimarrà probabilmente solo nominata, perché insomma, non è che sembra proprio ci sia un pensiero reale, un'attuazione, perché magari un pensiero c'è stato, ma un'attuazione reale... Non lo so, non lo so, però vedremo. Noi facciamo il nostro, ci ricongiungiamo solo con i nostri congiunti. Esatto, se non altro ci ha permesso di ritornare ai nostri domicili e di poter essere qua adesso tutti insieme, come una grande famiglia. C'è stata un'apertura, ma non c'è stata una reale indicazione su che cosa ci riserverà il futuro. Siamo tutti in attesa, ecco. Che non lo sa nessuno cosa ci riserverà il futuro. Quindi forse sarebbe chiedere un po' troppo. No, sicuramente forse prima non si sapeva cosa ci riservava il futuro, ma ci aspettavamo probabilmente qualche novità. E invece, soprattutto sui temi, no? Qua a Firenze, ma non solo, in tema nazionale, tutte queste novità che c'erano state... paventate lì qualche settimana fa, e mi viene in mente l'annuncio, il tema della ciclomobilità, la butto lì, ma ne parleremo tra 40 minuti circa con Jacopo Bardi. Ecco, quello è uno dei temi, per esempio, che sta dimostrando la miopia più totale, ma così come l'aspetto del lavoro, tutto l'aspetto delle sovvenzioni, che a molti non hanno ricevuto neanche quelle che erano state decretate a marzo, per tutti coloro che non hanno un lavoro ufficiale o partita IVA non si sa niente, sui nuovi braccianti, le regolarizzazioni dei migranti, niente, sulla conversione e transizione ecologica figuriamoci non esiste, e soprattutto sul modello di base che poi è andato in crisi e che ha dimostrato di non avere un sistema immunitario socio-economico oltre che fisico all'altezza della situazione, quello lì proprio un cambiamento ce lo sogniamo, però noi cercheremo di focalizzarci invece su quello che stiamo osservando, no? Invece in queste settimane, cioè forse un'accelerazione delle contatti di rete, un cercare di almeno in quell'aspetto lì di uscire fuori, di prepararsi, perché ancora pare non sia il momento propizio per uscire tutti allo scoperto, ma intanto per dialogare e provare un po' a unire certe tematiche mi sembra che ci siano, no? Esatto, su questo abbiamo fatto grandi passi, perché effettivamente è vero che le reti si sono, le maglie delle reti si stanno stringendo e si stanno unendo sempre di più. E a proposito di mancanze, penso che la solidarietà sia stata visto i canali più informali essere in prima linea, non tanto quelli ufficiali del governo, cioè che in una nella nostra democrazia dovrebbe essere il governo che ci aiuta, che ci porta avanti tutti. In realtà, soprattutto a livello proprio di cibo, quindi proprio di prima necessità, le reti di solidarietà informali non riconosciute magari da una forma giuridica hanno fatto veramente tanto, e di questo non possiamo essere orgogliosi, non perché siano informali o perché siano fuori dalle logiche, diciamo, ma perché la solidarietà non ha confini, non ha numeri, non ha bandiere, non ha colori, quella viaggia sempre. È che la mia sensazione è che, come diceva una nostra carissima amica pochi giorni fa, circa quasi 2 settimane fa, no? I buoni sono sempre più buoni e solidali, i cattivi sono sempre più stronzi. E alla fine, cosa succede, no? Poi magari nell'arco di questa puntata, insomma, a breve avremo dei collegamenti che ci racconteranno proprio delle realtà specifiche. Però succede che magari lo Stato delle sovvenzioni, come questi fatidici 600 euro per chi ha partita IVA, o anche i buoni spesa per tutta la povera gente che non può uscire di casa, non ha da mangiare, non guadagna, eccetera, lo Stato ti dice anche che te li dà e te li mette lì. È che per arrivare a dei semplici buoni spesa, per esempio, soprattutto se uno va a guardare il municipio di Roma, cioè il comune di Roma e i vari municipi, c'è da fare una trafila che richiede delle competenze tecnologiche e soprattutto di immaginare che ci sia un buono spesa. Quindi io devo partire dal presupposto che mi viene in mente che il comune potrebbe dare un buono spesa. Se si trovo le informazioni sul sito, vado sul sito, scarico, compilo, firmo e scannerizzo, scarico, stampo, perché è facilissimo stampare, compilo, firmo e rimando, e resto in attesa, magari in attesa anche per 2 mesi, intanto in cui nei 2 mesi di vera quarantena che faccio, non lo so. E quindi la domanda è: ma tutte queste cose messe in campo, ma sono poi realmente raggiungibili anche da chi ne ha bisogno, o sono solo prese per il culo? Perché ogni tanto mi sembra la seconda. Sentiamo questa opinione. Con questo nuovo provvedimento noi non avremo un libera tutti. Ecco, capito? Oh, capito, sì. Gringo? Questo era chiaro. Sì, questo è stato chiaro fin dall'inizio. Bene, bene, ma non acceleriamo troppo le cose, tanto parleremo piano piano di questi argomenti. Ma andrei con un altro estratto dall'album Coniglietti Rosa. Questo è Oi Oi, che trasmette molto bene quel sentimento di tedio di questi 2 mesi. A voi buon ascolto, alzatela perché c'è un super groove, eh? Alzate la palla. Thank you. che dire, poche parole ma chiare. Il mood che era quello in questi 2 mesi, se ve lo ricordate. Molto semplice, oi oi. Ma noio. Esatto, sì, molto. Salutiamo Eva Marrone, complimenti, bravissima. E a proposito di oioi, c'è qualcuno che ci scrive, Camicia, vuoi leggere, visto che si stava parlando proprio di quello, che cosa ci scrivono i nostri ascoltatori? C'è Mario che ci dice, a me 600 euro per il lavoro da partita IVA non mi sono ancora arrivati e nemmeno la cassa integrazione in deroga per il lavoro da subordinato, conferma tutto. Ecco, questo conferma la nostra ipotesi. E... sì, che non è un'ipotesi, anche cassa integrazione, perché ti dicono che arriva dopo 2 mesi. Ma la domanda è, ma nel frattempo uno? Esatto, nel frattempo uno può vivere d'aria, per esempio. Ci sono il respirianesimo è una religione, quindi non prendiamo la stessa. Il respirianesimo, esatto. Hai fatto una puntata su questo? No, però mi sono informato sul respirianesimo. Però diciamolo poi, d'aria, adesso un po' più di aria diversa, ma prima era sull'aria casalinga, perché non potevi uscire. Io mangiavo solo formaggi per 2 mesi, quindi ti faccio capire qual era. Quell'aria. In grandissima forma, è un profumo, aria profumata. Profumissimo. Ma che bellezza, 19:27, siamo in direttissima, Dama, dici te dove proseguiamo. E no, volevo, insomma, mi giungono per le mie origini dei contributi da quel della Bergamasca. Ovviamente non parliamo e non tediamoci con la situazione tragica che c'è stata, ci sarà, chi lo sa, in Lombardia, ma volevo parlare invece di uno spunto molto carino che può avere una persona in quarantena, cioè che in quarantena dice, vabbè, io non sono fortunato come quelli di Fritter, del Castello, di Radio Wombat, non ho una radio di riferimento, però mi piacerebbe fare una piccola rubrichina veloce, corta per tutti i miei amici. E così, insomma, questa mia amica ha iniziato, insomma, a fare questi audio che poi condivide con i propri amici e oioioi, la noia, un po' con la rubrica della Dani. Basta, ascoltiamocela. Amici, oggi voglio condividere con voi uno spazio che chiameremo VivingQ. Vi starete chiedendo che cos'è VivingQ? VivingQ è semplicemente l'emblema del nostro tempo, un modo di vivere che per comodità definiremo Vivi in quarantena. In pratica, un manuale di sopravvivenza che di questi tempi coronati, chissà, potrebbe anche strapparvi una risata. Grazie quindi in anticipo per il vostro tempo che avete da buttare ascoltando le mie fregnacce. Faremo oggi una piccola rubrica che chiameremo Q Play Chart, che altro non è che una selezione del tutto personale di brani, quindi niente critiche, grazie. Da adattare ai vari momenti della vostra giornata. Originale, vero? Beh, neanche un po'. Vediamola però nello specifico. Oggi partiremo così. È sempre sabato, anche di lunedì sera. È sempre sabato sera, quando non si lavora. È sempre sabato. È sempre sabato quando non si lavora, ha ragione Giovanotti. Se le vostre mattine quindi vi sembreranno tutte uguali, sì, in effetti lo sono, però possiamo divertirci variando la colazione, ad esempio anziché il solito caffè al volo, perché non friggersi delle uova o fare dei pancakes o concedersi quel dolce al cioccolato che tanto ci piace? Attenti però, le lasagne del giorno prima in effetti potrebbero risultare pesanti. Momento della giornata numero 2. Se anche voi fate parte di quella schiera di pensatori, cultori del divano, che sono fermamente convinti che la pennica post pranzo sia sacra, anche dopo essersi alzati alle 10 del mattino, Dreams dei Cranberries è la canzone giusta per voi. O comunque una qualunque di Masini, tanto poi si tratta di perdere i sensi. Momento della giornata numero 3. Siamo arrivati faticosamente alla sera e si abbassano le luci, inizia a crescere la fame e in noi si insinua un terribile dubbio. E mo che me magno? Del resto, la pasta in bianco con il tonno l'avevamo già sfoggiata quando abbiamo invitato a cena l'amico immaginario. Comunque, vi vedo già fermi a pensare, con le mani, con la testa fra le mani, mentre disperati cerchiamo di capire quale pizzeria da sport sarà ancora aperta nel nostro paese. E allora... Saturday night is alright for fighting. La guerra delle pizzerie è ufficialmente iniziata, ma forse neanche Elton John nel 73 immaginava che la canzone potesse adattarsi perfettamente a questo scopo. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo nostro primo incontro con la Q Play Chart e se vi andrà ci sentiremo intanto quando mi sentirò ispirata e poi se vi andrà ancora di ascoltarmi. Buona quarantena! Ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Attenzione Sanfrediano, attenzione Contado, è riaperto il mercato contadino in Piazza Tasso, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Garantiamo cibo sano e locale, libero da pesticidi e contaminanti di ogni genere. Venite a trovarci, tutela la tua salute e sostieni i contadini. Di nuovo in diretta dalle frequenze di Radio Wombat, la diretta speciale dalle 19 alle 21. Grazie allora a tutti quelli che ci ascoltano e grazie alla Dani con la sua super rubrica e chissà che non vi abbia stimolato qualche consiglio, non siamo più in questa stretta quarantina ma qualcuno magari anche. Grandissima sì. Dani, grandissima. Quando è che potrà venire al castello anche la Dani? Beh, quando il buco nero la materializza, insomma, però se sei arrivato tu dalla Val Susa, devo dire, lei da Bergamo, insomma, la distanza più o meno deve passare un po' più di controlli doganali, il buco nero da, esatto, dalla Lombardia, ma insomma, controlli iperspaziali. Come si direbbe al giorno d'oggi, aspettiamo dopo il 18 maggio e vediamo cosa succede. Sì, sì. Il 18 maggio è il nuovo 4 maggio. Chi c'è? Chi è che parla? Aiuto! Perché adesso anche i giorni prendono vita, davvero, un po' mostruosa. Quindi po' stranetto, non so se voglio che arrivi il 18 maggio. È un castello incantato questo. Questo è un castello, è ovvio, è il castello delle favole, è il castello incantato, c'ha le segrete delle tortuga, c'ha tutto, c'è, non ci manca nulla. In queste favole, infatti, siamo riusciti comunque a tornare in una piazza importante. Esatto. Che abbiamo sentito prima, ma lo facciamo risentire? Facciamo risentire. Attenzione Sanfrediano, attenzione Contado, è riaperto il mercato contadino in Piazza Tasso. Tutto vero. Venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Garantiamoci. Forse dovremmo spiegare a chi ci ascolta per la prima volta, magari sei sempre solo sintonizzato in questi orari, che praticamente noi siamo anche parte del gruppo di Radio Contado e quindi parte del gruppo del Ticino Clandestino e del Mercato Contadino. Quindi noi siamo tornati, vuol dire c'è il mercato in Piazza Asso. Grazie alla voce del 4 maggio che ha detto riaprono i parchi e i giardini. Siamo potuti tornare. Come fa a uscire il 4 maggio, camicia? No, guarda. Non la sai. Forse era un po' più gogliardica. Era un po' troppo 18 maggio. Molto, molto più. Ma approfittiamo per salutare gli amici di Radio Contado, però. Quei ragazzacci che da cui ci siamo separati ormai sono mesi e mesi. Forse sì, forse no, chi lo sa. E saluto anche lo zio. So che ci sta zio Lillo, che secondo me ci sta ascoltando. Batti un colpo, ciao, zio Lillo. Zio. Batti un colpo, bella zio Lillo. Zio. Vabbè, e a proposito di saluti, visto che. O di salute, potremmo, quando vogliamo, collegarci anche con un'altra regione che non è l'Alta Bergamo, ma è l'Alba Bassa, l'altissima Sicilia. L'altissima e spumeggiante Sicilia. Guarda, stravolentieri. Ci volevamo collegare con Anna da Catania, che adesso proveremo a chiamare, perché insomma sappiamo e lì... Dovete sapere che questa è una regia ovviamente homemade, con un computer e due microfoni, di cui uno è quello del Korg collegato alla scheda audio, per questo posso fare gli effettini strambi. E quindi ci chiediamo perdono se qualcosa di tecnico non sarà proprio eccellentissimo, però è bello riuscire, alla fine in questi due mesi, se non altro il Covid ci ha insegnato a cavarcela da sé, ognuno a casa sua, a fare una regia radio, e questo nei tempi in cui la comunicazione sembra diventare monodirezionale, invece è importante che si dia spazio, no, a chiunque possa di andare per canali radiofonici. È una cosa che non smetteremo mai di ringraziare. La wombatità della vita, la wombatezza del... Esatto, e anche i tecnici di Wombat che ci hanno permesso di fare questo miracolo, questo nuovo miracolo italiano. E intanto stiamo chiamando nostra amica da Catania. Vediamo se vai Bluetooth. Ecco, Bluetooth. I nostri potenti mezzi. Funzionano. Pronto? Eccola, ciao Anna. Ciao dama, ciao gringo, buonasera a tutti e a tutti. Ci abbiamo qua anche il nostro amico Camicia, che ti presentiamo. Ciao. Nuovo. Ciao. Molto piacere. New entry. Piacerissimo. Anna, innanzitutto ti ringraziamo per esserti predisposta, insomma, a una chiacchierata con noi. Però insomma, visto che ci si conosce da tanto e purtroppo non possiamo farti venire per le dovute distanze proprio qua in regia, volevamo sapere, ma com'è la situazione a Catania? Che è successo in tutti questi lunghissimi, infinitissimi due mesi a Catania e che cosa avete fatto voi? Insomma, che so che siete un gruppo importante. Iniziamo da... Intanto... Vai. Sì, scusami. Allora, intanto ringraziamo noi, voi, per questo spazio che ci state dando. è sempre importante mantenerci in contatto, in un certo senso, come dici tu, per questa rete, seppur virtuale, però mantenerci insieme di informati. Esatto. Dunque, io dico noi perché in questo momento parlo come componente del CSP, il Comitato di Solidarietà Popolare Graziella Giuffrida, che tu conosci bene. Lo so, ho qua davanti a me un meraviglioso calendario. Dunque, cos'è successo a Catania? Io sto sentendo del ritorno. Vai, vai, se lo senti, okay. Mi spiace, però proviamo a vedere se miglioriamo. Proviamoci. Un po' meglio? Bene, proviamoci. Allora, riorganizziamo insieme. È successo che per le prime due settimane di lockdown Catania è stata, diciamo, ha vissuto un momento di grande silenzio e di assenza da parte del comune e di quelli che poi invece si sono mossi. In questo silenzio qualcuno, qualche famiglia, qualche singolo stava iniziando a preoccuparsi seriamente. Non solo a Catania, ma tutta la Sicilia e quasi tutto il sud ha visto degli episodi di manifestazione di disagio e preoccupazione con degli atti simbolici svolti in dei supermercati. Ecco, quindi in questo silenzio totale credo che i vari comuni e lo Stato abbiano avuto modo di osservare. Credo che l'intento anzi fosse proprio quello di osservare come la gente potesse organizzarsi. Ecco, quindi dall'assenza ha pensato bene di dare una prima risposta, che è stata quella della militarizzazione dei supermercati, delle poste, dei punti di aggregazione più sensibili, dicendo, ecco, cioè sia chiaro che se qualcosa potesse venire in mente, no, non sarà, anzi facciamo così, vi diamo degli aiuti. E quindi il comune ha iniziato a promettere dei buoni, insomma degli aiuti che sarebbero dovuti arrivare, quindi raccoglie, siamo intorno alle 16.000 o 18.000 domande, e che fa? Già consapevole di non potere o volere rispondere a tutte queste esigenze, inizia a fare delle chiamate alle varie associazioni, inizialmente quelle già riconosciute, istituzionali, come Protezione Civile, Croce Rossa. Insomma, si apre e lancia questo appello dicendo: associazioni, dateci una mano a svolgere questo lavoro di assistenza per i beni di prima necessità. Quindi Anna, molta gente è accorsa, si è resa disponibile, però da lì, facendola anche breve, Catania ha vissuto dei momenti parecchio brutti ma anche scandalosi, perché come dire, la manovra del comune era chiara, voleva in un certo senso sedare e anestetizzare gli animi. Le associazioni si sono trovate coinvolte in queste manovre e dopo i primi momenti in cui sembrava tutto andasse bene, tra le varie associazioni che comunque avevano convogliato ragazzi e ragazze, gente che ordinariamente milita nei propri spazi sociali, quindi è iniziato a passare per le menti di alcune, non di tutte, appunto queste associazioni, questi volontari, il discorso che forse stiamo facendo assistenzialismo e forse siamo stampella di un comune e di un sistema che non va secondato. Quindi proviamo a fare un discorso diverso, a fare un discorso, anziché consegnare il pacchettino, tu mi ringrazi, io porto a casa tanta gloria, perché poi abbiamo assistito anche a questi momenti di, come dire, mostra, non lo so, ci si gloriava quasi appunto di tutte le famiglie che si riuscivano a seguire, cioè la passione per la povertà. E che succede? Quindi i piccolissimi gruppi iniziano a dire: guardate, noi vogliamo in realtà fare un discorso, accompagnare la gente a dei ragionamenti. Quando questo è venuto alle orecchie di alcune associazioni, hanno ritirato i permessi e molta gente si è ritrovata a stare in giro in maniera non più autorizzata, o addirittura si è trovata a tornare a casa e non offre appunto più nessun servizio. Quindi, insomma, in soldoni, è finché zitti e muti. Non riesco a sentirti. Ah, mi senti ora? Proviamo. Prova a vedere se mi senti. Male. Malissimo. Dicevo, finché zitti e muti, potevate dare da mangiare, sfamare le persone. Se uno ci mette un po' di ragionamento, no. No, non andava assolutamente bene. Però ecco che succede, questo è quello che è passato, appunto ti racconto, perché abbiamo vissuto scenari diversi in Catania, ma credo in tutte le grandi città comunque amministrate da con un'amministrazione di destra. È successo che quindi tutta la parte istituzionale andava verso il approfittiamo di questo momento per continuare a rendere più vulnerabili le persone più di quanto già lo siano, continuiamo a stigmatizzarle, perché comunque dal comune ad un certo punto è arrivata una richiesta di avere dalle varie associazioni tutti i nominativi, quelli nomi e cognomi, come se non bastasse, cioè avevano già chiesto comunque un ISEE per farsi così tutta una lista bella di nomi da poi ricontattare eventualmente in una campagna. Dico questo anche perché a Catania, le 7.000 domande sono rimaste fuori, 7.000 famiglie, 7.000 domande. I primi a ricevere soldi sono stati gli amici di qualche CAF, quindi strumentalizzazione varia. Per fortuna però, ecco, sono venuti fuori, questa è una cosa bella, è venuto fuori qualche gruppo auto-organizzato, spazi sociali, comitati di solidarietà popolare, appunto, che fuori dalle autorizzazioni e fuori dagli accordi col comune hanno continuato, caso specifico, abbiamo continuato a fare quel lavoro che da sempre, da anni si fa nei quartieri. Cioè, in realtà chiedersi siete scesi in strada non autorizzati, quindi avete rotto la quarantena, quindi noi o chi come noi si è trovato per strada a un certo punto mentre già stava facendo delle cose, si è trovato il mondo che si chiudeva e abbiamo continuato a stare per strada a fare il nostro lavoro politico che da anni facciamo, quindi non era solamente il consegnare beni di prima necessità, quanto piuttosto di accompagnare legalmente, fare lavoro di inchiesta e di denuncia, ma condividendolo con chi si trovavi a sentire e a vedere, non volendo assolutamente rimanere in quella forma di elemosina a cui si è assistiti. Chiaro, chiaro Anna, direi anzi, insomma, forse di fronte a certe situazioni non ha senso non esserci per strada, insomma, mi sembra che abbiate fatto e state continuando a fare un ottimo lavoro, ma continuate, è cambiato qualcosa, c'è qualcosa di diverso oggi? No, per noi questa fase 2 ci ritrova, allora, il nostro lavoro continua ad essere quello che abbiamo sempre fatto. Se cambia qualcosa la disperazione è nella disperazione della gente. Molti si sono fermati perché appunto, come ti dicevo, quando tu usi la solidarietà come arma, come strumento di mutualismo, quindi vuol dire che ci sei stato prima e ci sarai domani, non ti fermi. Cambi gli strumenti, ma ci sei sempre. Invece molti si sono fermati perché è finita l'emergenza, è finito appunto questo lavoro di distribuzione, anzi noi ci troviamo nei quartieri dove ci muoviamo a vivere una situazione ancora più difficile, perché ecco, chi aveva un lavoro, aveva qualcosa da parte, adesso è finito tutto. Gli aiuti del comune non arriveranno perché è stata pubblicata la graduatoria e appunto 7.000 famiglie sono fuori e c'è questo rischio costante di questa bomba che può esplodere. Quindi per fortuna da un lato ci siete voi, che o persone come voi in associazioni, comitati, che riuscite a sopperire queste cose, da un lato è l'ennesimo esempio di una disfunzionalità dello Stato, in questo caso del Comune di Catania, che non riesce veramente minimamente ad affrontare o a venire incontro, a supportare delle famiglie in difficoltà. Questo. È così, ma credo sia più una non volontà. Una non volontà proprio. Non c'è la volontà, ma forse non lo c'è mai stata, no? E situazioni come questa sono solamente l'esploit, no? Che fanno notare queste non volontà ancora più forti. Esattamente. Va bene, Anna, io devo dire, ci hai fatto una panoramica chiarissima e un po'... sempre sconfortante nei confronti delle nostre istituzioni, però invece bellissima dal punto di vista umano e razionale. Credo che una delle cose importantissime che tu dicevi e raccontavi è questa importanza anche in questo periodo di non è solo sfamare e dare da mangiare o sostenere le persone, ma è continuarci a dialogare e a ragionare, cioè esserci veramente, non creando i tanto paurosi assembramenti, ma io ci sono, possiamo parlare, ragioniamo. Questa è una salvezza che do anche per le famiglie che sono veramente disperate, avere qualcuno con cui poter parlare. Si cammina insieme e ci si accompagna. Bene, grazie e in bocca al lupo per tutto, Anna. Grazie a te, grazie a voi e buon lavoro. Rimaniamo uniti e unite nella lotta. Oh Anna, se poi ci sono, se succedono delle cose o succede altro e ci volete aggiornare, noi siamo sempre disponibili per mandare voci meravigliose come la tua a raccontarci quello che succede. Vi ringraziamo. Un abbraccione. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao. Quindi il calendario bellissimo di cui ho chiesto le copie è lei che me lo manderà, vero? Collegato. No, noi abbiamo chiesto a un'altra militante che si occupa invece della parte libri, calendari e altro. C'è un gruppo molto solidale di amiche su Catania che io insomma conosco attraverso il Teatro dell'Oppresso e la rete di educazione popolare che si ispira ai principi di Paolo Freire e Augusto Boal, e devo dire che a Catania c'è quello che proprio si attraverso di loro, e lo sento stata diverse volte a trovarle, c'è quello che è proprio la militanza più vera e più sincera e più sensata. Quindi stare in mezzo alla gente, dialogare con loro, proporgli stili di vita alternative, ragionamenti, una persona anche solo con cui fare due chiacchiere, esserci all'interno dei quartieri in difficoltà o più emarginati semplicemente. Quindi io le apprezzo tanto per il lavoro che fanno. Grazie mille. Passiamo dal serio al serissimo con l'ultimo brano dell'album di Eva Marrone, che è conosciutissima nel duo di Cabaret Dark o Dark Cabaret Adolfo ed Eva, che avete sentito sicuramente nominare. Certo. E questa è l'ultima. Assolutamente sì. E questo li sentirete nominare, quindi attenzione che un giorno vi diranno: ma ecco, che c'è? Sex Toys, bravo, segniamo nella scaletta, ben maiuscolo, scordate il testo e la pregevole fattura di questo brano. Evviva! Sex Toys. Sex toys. tolto tutto, voglio un flag listato a lutto. Mi avete tolto tutto, voglio un flag listato a lutto. Mi avete tolto tutto, voglio un flag listato a lutto. Sex toys, voglio un sex toys, voglio un sex toys. Giocare a nascondino. Sex toys, sex toys, sex toys, sex toys, sex toys. Con questo nuovo provvedimento noi non avremo un libera tutti. Gringo, non avevamo acceso nulla, forse avevamo addirittura mandato la base un pochino sotto il pezzo Sex Toys, spero di no. Stavo dicendo che dovunque vai, pulisci poi dove passi. Dai, la cera, non c'è libera tutti. Certo. Sempre. Forse c'è solo il libera disinfetta, alcuni. Disinfetta per benino, se no... questa cosa del libera tutti a me mi riporta a quando ero bambino, quindi... Bomba, ma, libera tutti, no? Sì, ma a parte il fatto del momento in cui ha detto non è un libera tutti, ha detto è un libera tutti, perché si sa in politica come funziona, ti dicono no, per dire non sì. Alzeremo le tasse, non è un buon libera tutti, uno dice ma allora vale anche adesso questa regola, quindi... Però proprio il termine, no, libera tutti, quindi vuol dire che non eravamo liberi, e mo mi incazzo ancora di più, perché l'abbiamo fatto perché eravamo obbligati, o per rispetto della sanità, perché siamo stati a casa? È un'ottima domanda che fai. Perché siamo i tedeschi dice l'hanno fatto per rispetto e noi per obbligo. Queste, diciamo, le male lingue ovviamente, no, dicono questo, ma non è che sono così contrari a questa opinione. No, ci sta, però all'interno dell'italiano medio ci stanno diverse sfaccettature, secondo me, quindi c'è sempre una via di mezzo ed è un po' e un po'. Sì, fatto sta, però questa libertà non torna ed è stata compromessa, capisco in Lombardia, capisco che capiamo in certe regioni, ma come ci diceva la nostra amica da Catania, insomma, che continuano a perdurare certe situazioni che siano state affrontate in questo modo è veramente preoccupante. E a proposito di libertà, o meglio privazione di libertà, mi viene anche in mente che, insomma, di prima si faceva tutto un discorso sui buoni propositi che poi non sono mai stati messi in atto, eccetera. Mi viene da dire che l'unica cosa che forse il nostro caro amato Stato è in grado di mettere in atto è ripescare delle soluzioni vecchissime. Adesso probabilmente dal 18-19 maggio, non si sa, comunque da lì a poco riapriranno i colloqui negli istituti penitenziari. Li riapriranno in una forma tipo probabilmente come quella che ci abbiamo impiegato anni a smantellare, quindi col vetro, con un plexiglass o così, con la guardia così. Quindi, e poi ogni volta imparano qualcosa, poi ci sarà qualcuno che immagina deve passare, esatto, o magari con altre tecnologie, tipo vengo a colloquio però ci facciamo una videochiamata in WhatsApp, però almeno ti vedo da lontano, no, non lo so, però sicuramente non c'è una fantasia e una volontà per investire delle risorse per fare qualcosa di veramente innovativo, però questo purtroppo ne paghiamo le conseguenze di questa di questa dirigenza che è inconsistente. D'altronde, se siamo i primi come nella classifica degli analfabeti funzionali, cioè non è detto, cioè gli analfabeti funzionali. Sì, siamo primi lì. Grandi. Non è detto che sia, cioè, che non ci sia un analfabeta funzionale nelle istituzioni o comunque in altri ruoli chiave, perché se la statistica ha un ruolo, certo, siamo lì, insomma. Ma dai, Camicia, secondo me adesso sì, invece momento, tu l'avete proprio lisciata. No, tu invece adesso ci parlerai infatti di grandi progetti che guarda, sono stati ci sono raccontati esatto, e che sicuramente faranno, no? Per ma guarda, sono già a metà dell'opera questi bravi ragazzi, mentre sulle note di Stan Getz, The Dolphin, consigliato dallo zio, ho messo direttamente tutto l'album, zio, non ho scelto una traccia. Qua sta andando. Era la musica perfetta per parlarvi dei super progetti ciclabili. Oh, che meraviglia! Qualcosa che, ci sono che in Italia. Finalmente facciamo, si avvererà. Se parti che stavolta. Tanto aspettavamo. E che finalmente. Finalmente l'Italia è il fiore all'occhiello d'Europa dal punto di vista della ciclomobilità. Applausi. Questo è quello che ho sognato stanotte. Poi mi sono svegliato. E dopo due settimane dove c'è chi metteva foto, no, delle ciclabili a Milano e diceva dai che anche a Firenze si fa, dai che c'è questo e la FIAB insieme al comune che stanno cercando da un po' di fare una mappa, la bike popolitan, come si chiama, metro ciclopolitana o tutti i termini che sono stati usati in questi mesi. E grandi bellissime idee e poi la doccia fredda che leggo oggi pomeriggio su bikeitalia.it, non l'ho verificata andando a vedere ancora nel sito del ministero, immaginiamo però che sia stata verificata da loro e vi invitiamo ad andare a vedere, e recita: doccia fredda per le città dall'ultima bozza, la versione di ieri dell'11 maggio, quindi dalle 17:30 del decreto rilancio, cioè, spara una cazzata, vediamo che rilancia di più la cazzata. Chi offre di più? In discussione in Consiglio dei Ministri è sparito l'intero articolo 205. Andate a vedere qual era. Era misure per incentivare la mobilità sostenibile, che conteneva tra le altre cose gli incentivi da 500 euro, sai, per l'acquisto di biciclette. Tra l'altro so che già in Spagna e in altri paesi hanno già elargito, e gente, hanno, compresa mia sorella, ha già comprato una bicicletta grazie ai soldi. Ecco, noi che in realtà abbiamo avuto per primi il coronavirus, siamo gli ultimi, anzi abbiamo anche negato, stiamo negando la possibilità di migliorare, almeno dai, in questo caso. Mi dai una notizia, cioè, fino a ieri sera, e ho letto proprio ieri sera che di questo articolo del decreto, nel decreto rilancio, quindi è una manovra proprio fatta. Vedremo se torneranno sui loro passi. Magari se pressiamo un po'... stalkeriamo con questa super mega puntata di Radio Uomo sicuramente magari cambieranno idea, no? Forse noi da soli possiamo fare l'80%, ma dobbiamo fare il 100%. No, chiediamo anche ai radioascoltatori, esatto, di dobbiamo telefonare a uno dei nostri radioascoltatori che si muove tanto e lavora tanto per la ciclomobilità, oltre a lavorare proprio come cioè con la sua bicinsella della sua bicicletta, è tra coloro che, oltre ad essere il cofondatore dei riciclabili, ha anche, insomma, delle idee in proposito. Rontolo? Eccoci qua. Rontolo, Prontolo, ciao Jacopo, buonasera, buon pomeriggio. Ciao belle, la linea è perfetta, direi. Bene, bene, io ti sento un pochino lontano comunque. Sì, perché se ti avviciniamo mi sa che c'è il problema che c'è ti torna l'audio, c'è un po' di ritorno, però se te lo agguanti l'avvicino al microfono. Come va oggi? Cioè, come va? Come ora? Va? Come va ora? Ci senti meglio? Ora, senti, bene. Io sento questo ritorno della mia voce. Questo mi sa che non abbiamo i mezzi per... quando inizierai a parlare mettiamo il muto, quindi non ti preoccupare, non dovresti più sentirlo. Comunque ti abbiamo chiamato, ovviamente stavamo parlando della ciclomobilità a livello fiorentino, poi anche è giunta questa notizia che stavo leggendo poco fa, che ti avevo anche girato, che ho letto su Bike Italia, su questa cancellazione dell'articolo 205 che elimina numerose modifiche al codice della strada e che cancella gli incentivi e le misure per incentivare la mobilità sostenibile. Pare sia una cosa di ieri. Comunque, vabbè, non ci stupisce ovviamente la cosa. Fa girare tanto i coglioni, ovviamente, poi non so ancora quanto sia definitiva, eccetera. Però quello che ci interessa sapere più o meno è cosa tu, in quanto ciclo amatore, in quanto riciclabile, quanto persona veramente molto attenta a questo aspetto, come secondo te, qual è la situazione attuale principalmente nell'ambito fiorentino e se ci sono delle proposte o che cosa potremmo fare probabilmente per riuscire a smuovere un po' le acque e le ruote? Sì, allora, questa notizia l'ho letta anch'io sulla cancellazione dell'articolo 205 del decreto legge cosiddetto chiamato rilancio, che evidentemente sulle biciclette non è così bene. E, comunque sia, non è definitiva questa cancellazione, si spera che sia soltanto un momento in cui stanno magari facendo delle correzioni, non è che c'è stato proprio un annuncio potente da dire che questi incentivi sulla ciclomobilità saranno cancellati definitivamente. Aspettiamo le prossime settimane, incrociamo le dita perché ci sarebbe veramente un autogol. Per quanto riguarda Firenze, sulla carta si stanno muovendo diverse cose a livello decisionale, perché il Comune di Firenze, tramite l'assessore Giorgetti, pronto, mi sentite? Sento un... Sentiamo bene. E, tramite l'assessore alla mobilità Giorgetti e grazie alla buonissima assistenza da parte del FIAB Firenze di Legambiente, stanno organizzando delle proposte che si coagulano attorno all'idea del cosiddetto piano Bartali, che dovrebbe essere una risposta all'emergenza che ci troviamo ad affrontare da qui ai prossimi mesi. In particolare nel piano Bartali il Comune di Firenze ha predisposto l'accelerazione su delle piste ciclabili strutturali che erano già state previste in precedenza, ma di farle più velocemente, 12 km in particolare, e la creazione di 10 piste ciclabili emergenziali, quindi provvisorie, per un totale attorno ai 22-25 km. Il comune prevede l'aumento del 50% della ciclomobilità. Ovviamente sia Legambiente stanno spingendo per completare e per rafforzare questa idea, hanno tirato in ballo la questione delle rastrelliere, dei sensi unici da sperimentare, eccetto le bici, cioè il discorso che già in altri paesi europei diciamo, le strade con un solo senso di marcia, però è permesso alle biciclette di poter andare anche nel senso opposto, e questa cosa ancora a Firenze non è stata recepita, e quindi hanno proposto giustamente questa interessante proposta. Ora, il discorso certamente, al di là di quelle che sono le decisioni che per ora sono sulla carta, perché non è che stiamo assistendo a delle vere e proprie, cantieri in città in questo momento, sulla carta va bene, il fatto è che certamente ci troviamo di fronte a un momento epocale, nel senso che o la città si trova di fronte a questa scelta o di fare accelerare, proporre, spingere su un cambio di paradigma della mobilità fiorentina, oppure invece fare quello che succede spesso nelle città italiane, cioè di salvare capre e cavoli e di insieme, diciamo, alla ciclomobilità comunque rafforzare il mezzo privato. È chiaro che questa seconda soluzione sarebbe insostenibile, e non è scontato però che non venga attuata dal comune, tant'è vero che ci sono state alcune tentennamenti sulla riapertura della ZTL nel centro storico, che sembra quindi che non sia ancora chiaro da parte del comune che qui non c'è da fare una scelta cui si continua a vedere un futuro con i mezzi privati e poi con un po' di miglioramento della parte della ciclomobilità. Qui c'è bisogno di una scelta di campo precisa e coerente da parte del comune a favore della ciclomobilità e disincentivare l'utilizzo dei mezzi privati non soltanto nel momento dell'emergenza di ora, ma anche quando l'emergenza coronavirus sarà terminata. Questo è il gioco in atto. Quindi insomma ci stiamo organizzando per sento un forte ritorno adesso della mia voce, e ci stiamo organizzando appunto per fare una petizione che stiamo proponendo proprio in questi giorni di raccolta firme per per sostenere la battaglia, anche le proposte di FIAB Firenze, di Legambiente, di tutte le associazioni che hanno interesse alla ciclomobilità fiorentina, attraverso un aumento del consenso popolare proprio appunto tramite la petizione, perché siamo convinti che questo sia il momento di far capire al comune, al sindaco, che la popolazione vuole cambiare passo, vuole cambiare, vuole una città diversa rispetto a quella che è stata finora, e soprattutto non vuole una questione, diciamo, una città solo provvisoriamente più bike friendly, ma qualcosa di definitivo anche per i prossimi anni. Quindi vogliamo, con una raccolta firme sostanziosa, far capire che ai nostri politicanti, a coloro che ci rappresentano, che la nostra non siamo in pochi a volere un cambio di passo, e speriamo che con questa petizione, che ora ci prestiamo ad organizzare, a definire più nel dettaglio, si possa sostenere il più possibile queste dinamiche che apparentemente adesso sono a favore della sostenibilità. Certo, grande, grande, grande. Sì, infatti mi chiedevo quali sono questi strumenti, cioè, se secondo te c'hanno, le istituzioni già c'hanno gli strumenti, avrebbero gli strumenti già per operare questo cambio di passo, immagino, perché noi in questi anni associazioni, singoli hanno fornito alle istituzioni, no? Mappe, punti da migliorare, idee di come cambiare i regolamenti, idee per ordinanze per favorire appunto le bike lane, il passaggio della bicicletta in centro e senza auto. Quindi no, ci sono già tutti questi strumenti, però le istituzioni si arroccano dietro a qualcosa, dietro a un castello di vetro, a un castello di carte, ma non riesco davvero a capire, o comunque ci chiediamo quali siano poi le ragioni di questo arroccarsi, perché è già sovrasatura di macchine Firenze, ha tutte le caratteristiche per diventare un esempio a livello italiano e non solo di città comunque ecosostenibile per la sua caratteristica di immersione nelle colline, nella natura, perché non siamo una metropoli, perché abbiamo anche una distribuzione a parte nel centro storico, ma dai viali in poi di una disposizione radiale delle strade che permette una buona circolazione o anche una buona impostazione delle ciclovie, eccetera. Eppure rimaniamo legati ai concetti di 60-70 anni fa, in cui se c'è bisogno di fare una nuova corsia la facciamo per le altre macchine. Questa cosa secondo te quanto è ancora destinata a durare? Cioè è destinata a crollare presto? E sei ottimista su questo argomento? Questo è proprio, ti ringrazio per la riflessione, perché si rimane poi anche alla ragione che ci ha spinto a fare questa petizione. Il discorso è un culturale. Ovviamente chi ci rappresenta segue quello che pensa siano le dinamiche di pensiero della cittadinanza. Fino ad oggi purtroppo gli italiani in generale sono stati sempre resti alle novità che vanno verso la ciclomobilità. Purtroppo siamo un popolo abituato da anni a utilizzare intensivamente il mezzo privato inteso come automobile o motorino. Questa è un'attitudine, un aspetto culturale che ci caratterizza, che caratterizza poi alla fine molti popoli latini, e che è duro a morire, e purtroppo i politici hanno conseguentemente seguito questa tendenza, senza però avere il coraggio di proporre qualcosa di rivoluzionario e di oggettivamente più sostenibile. Adesso secondo me siamo nel punto di equilibrio, disequilibrio, in cui o c'è un ritorno definitivo e ancora più forte di quella parte che vuole utilizzare il mezzo privato o è incoraggiata a utilizzare il mezzo privato, oppure c'è magicamente un incoraggiamento, un rafforzamento e un cambio di direzione nei confronti della sostenibilità urbana, soprattutto per la mobilità. È un momento cruciale, perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che, purtroppo ovviamente l'economia è quella che è in questi giorni, però è sotto gli occhi di tutti la bellezza di una Firenze ciclopedonabile. Quindi è proprio questo il momento in cui forse molte persone stanno godendo di quella città che era stata pensata da molti di noi appassionati e che però magari per la quotidianità, per lo stress quotidiano, per il semplice status quo, molti cittadini non avevano la capacità di immaginarsi una città del genere. Invece questa città ciclopedonale è una città possibile. Perché siamo nel 2020 e quindi abbiamo tutti gli strumenti tecnologici per farla. Possibile perché ce lo impone il momento storico, ambientale, e anche, se vogliamo, questo coronavirus ce lo impone. E quindi il pensiero che abbiamo molti di noi è questo: o facciamo adesso un passo appoggiandoci proprio su questo sentimento, che penso sia diventato comune anche ai non super appassionati di ciclismo, cioè questo sentimento di godimento nei confronti di una città non così caoticamente trafficata, oppure insomma, voglio dire, è una sfida, no? che abbiamo di fronte a noi. Sì, e sì, però ti interrompo. La sensazione è che questa sfida possa essere vinta, anzi è una sensazione che non solo io ma anche tante altre persone che lavorano alla petizione o comunque che sono vicine all'ambiente, IAB, Legambiente o tutto ciò che ha a che fare con la sostenibilità, c'è questo sentimento di dire si può fare, yes we can questa volta, cioè yes, we must, pensiamo di yes, essere no. molto meno isolati rispetto a prima e che molta parte della cittadinanza sia favorevole a questo cambio di passo. Ma dovrebbe essere yes we must, Jack, altro yes we can. Però, senti, ma visto, allora, visto che siamo, siamo alla fine, volevo chiederti se ci, se ci possiamo lasciare però con cercando di farci immaginare quello che hai visto, hai provato in questi giorni attraversando Firenze in bicicletta, perché visto che credo che ci manchi proprio l'immaginario, riuscire a immaginarci l'emozione, la bellezza di camminare in bicicletta ma anche a piedi per una Firenze come l'hai vista te in questi giorni, ecco, è importante. Quindi se ti va di raccontarci quello che hai visto te, sì. Così ci salutiamo con un po' di speranza. No, allora la cosa più bella sicuramente che si prova quando si vive una città senza non schiacciata dal caos, dal traffico e dall'inquinamento, ed è quello che ho provato io in questi ultimi mesi, almeno quando il lockdown si è alleggerito, è questa sensazione di poter finalmente concentrarsi su se stessi, di non essere continuamente distratti dalle tensioni e dalle energie negative che provengono dallo stress, inevitabile stress dovuto al traffico e alla schizofrenia quotidiana. Io sono convinto che il rumore del mezzo meccanizzato sia un rumore distrattivo e nocivo. Penso che una riflessione che ho fatto in questi giorni, le sonorità, probabilmente consciamente non ci accorgiamo delle sonorità su frequenze basse che si attivano in una città meccanizzata e ipertrafficata, ma sono vibrazioni che sicuramente ci allontanano da una serenità interiore. E non sto parlando di spiritualità intangibile e, come dire, new age o astratta, ma sto parlando, secondo me, di questioni che avvengono proprio nella nostra fisiologia. Andare in giro questi giorni sentendo nitidamente il rumore dell'acqua, degli uccellini, delle persone che parlano vicino a me, fermare per parlare con amici senza dover urlare quando passano motorini che suonano all'impazzata oppure macchine che ti mettano in pericolo, ti riporta sicuramente a un senso del vivere e dello spostarsi antico e originario e più molto più vicino alle nostre corde, ed è un senso di rilassatezza, è un senso di armonia nei confronti dell'ambiente circostante, e penso sia dovuto proprio alla mancanza che c'è stata in questi giorni, in queste settimane, del rumore di fondo, di questo rumore di fondo che non si ferma mai. Questo è il messaggio che voglio comunicare, il piacere del silenzio, il piacere di poter ascoltare senza distrazione. Grazie. E ci vorrei, così potremmo ascoltare anche meglio Radio Wombat, scusa, in centro a Firenze. Ma infatti no? Sono convinto che Radio Wombat dovrebbe sfruttare la nuova ciclomobilità per sparare alla più grande forza possibile le sue onde nocive in tutto il pianeta Terra. Esatto. Proveremo, dai. Proveremo, Guarda, sicuramente divulgheremo la petizione appena verrà lanciata e poi appunto proveremo a portarci il nostro carrello con la radio mobile in una in una urbanizzata ciclistica nei prossimi giorni. Te hai scelto due brani, adesso mandiamo Conte con Bartali, o Bartali con Conte, in ricordo al ciclista e in speranza al piano. Ciao a tutti. Grazie Jack. Alla prossima. Ciao. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazz. Oh, finalmente una canzone che rispecchia anche un po' il mio gusto musicale. Grazie Camicia, anzi grazie. Sei per la grande distribuzione organizzata della musica. Assolutamente. Siamo per i piccoli produttori che hanno bisogno di essere ascoltati. No, no, ma io anch'io ho dei piccoli produttori miei preferiti, tipo Ettore Giuradei. E dove sono? Mandiamoli. Oggi non mi avete dato possibilità di scelta, avete voluto fare tutto voi. E già, è vero, c'è anche il pezzo di Luca, attenzione. Poi ho messo, un altro pezzo che ci ha mandato Luca è un bel pezzo. Molto, un'altra top ten. Glielo dedichiamo. Vabbè, ma prima di mandare il pezzo qui ti chiamo a Luca. Ciao Luca, ti saluto. Ciao Luca, ci manchi. Speriamo che prima o poi anche tu ti materializzerai dal buco nero qua del castello. Ci manchi molto. Ci manchi. Però insomma, come i nostri appassionati, c'è sempre qualcuno che ci dedica delle canzoni. Ma per riprendere un pochino il discorso, insomma, il discorso impegnativo, è piccante. Impegnativo tutto questo. No, bellissima la descrizione di Firenze. Quasi emozionante la descrizione di Firenze. Infatti fa venire voglia di realizzarle. Esatto, Jacopo ha reso bene l'idea qual è la differenza fra una Firenze come è stata finora e come potrebbe essere. E soprattutto a me è piaciuto molto, insomma, una Firenze descritta a portata di radio, nel senso, perché si parlava tanto di rumori più che di impatto visivo o altro, e mi ha commosso questa cosa. Comunque quella di Jacopo è stata una bomba, insomma, lanciata una bomba. Tutti questi aggiornamenti che ci sono che vengono dal comune di Firenze, da quello che speriamo si riesca a smuovere con questi appelli che vengono fatti. Ma sì, perché sì, poi alla fine hai visto, se uno non comincia veramente a divulgare, a amalgamare anche l'opinione pubblica su queste tematiche, difficile che poi qualcuno si metta lì a livello, no, di giunta comunale a dire davvero guarda qua c'è tante persone che vogliono un cambiamento. Non lo fanno perché è naturale rimanere nella vecchia normalità. È più semplice, richiede meno investimenti, meno sforzo, ma sì, un po' idee, anche perché no. Se non c'è una magari volontà espressa, loro hanno sempre la scusa, come un po' ci raccontava prima Jack, di dire ma la maggior parte delle persone forse non vogliono questi cambiamenti, vogliono rimanere così com'è, e quindi forse è il caso di farsi sentire. Sì, esatto. Poi c'è sempre la questione: cosa porta più voti? Questo non lo dobbiamo mai sottovalutare. Sulle scelte politiche pesa tanto, almeno dalle nostre parti, dalle nostre latitudini italiane, quanta popolarità a livello poi di voti mi porta una scelta al posto di un'altra, che sia della mia diciamo fazione politica o sia per me stesso in quanto politico. No, e poi se ragazzi, pensiamoci bene, ma se ci sono troppe biciclette o troppi altri modi di muoversi, ma tutti i benzinai in fila uno dietro l'altro del Galluzzo, ma come fanno poverini dopo? Cioè, questo ingresso trionfale dal Galluzzo a Firenze centro... Dovrebbero diventare delle ciclo-officine... Quello può essere... Rapida, sai, come quelle si trovano sulle ciclovie... Così, in qualunque momento tu sei lì, in qualunque posto tu sei, puoi sempre ripararti. Bello, mi piace. O chi lo sa, oppure semplicemente dei ristorantini. O tanto prima o poi i benzinai dovranno chiudere. O trasformarsi comunque. Esatto, vendere qualcos'altro, magari. Che poi siamo distributori d'acqua un giorno. In questo paradosso incredibile dove tutte le pensiline, tutte o quasi, le pensiline dei benzinai hanno il fotovoltaico installato. Esatto. E nelle case non lo possiamo installare perché c'è il vincolo, perché costa troppo, perché insomma mille problemi. C'è il vincolo. Il vincolo. È questo sì. Paradosso dell'energia alternativa pulita al petrolio. Ecco. Cioè, poi dicevi delle voti eccetera, è ovvio che ancora la massa critica da parte di chi è amante della ciclomobilità o chi appoggia ciclomobilità ancora non si è raggiunta, siamo ancora lontani da raggiungere, nonostante l'aumento, si vede nelle critiche al MAS mese dopo mese da anni fa, sta crescendo tantissimo, e anche il nazionale, no, è enorme, che è stato ospitato l'anno scorso. C'è un numero di persone sia a livello amatoriale ma anche di ciclisti proprio sportivi, cioè in esponenziale aumento, quindi cioè le persone iniziano ad approcciarsi a seriamente manca quel click alla massa. Infatti comunque cioè sono moltiplicati anche per dire anche Radio Wombat ha il suo programma in punta di pedale. Salutiamo Denever e Briccobaldo, ma anche in TV ora io non ce l'ho nemmeno, però ogni tanto mi capita da qualche amico che ci sono programmi proprio di programmi televisivi sulle biciclette, quindi sui viaggi, su tutto il mondo della bicicletta, quindi segno che comunque, come dicevi te Camicia, c'è un interesse. Sì, non siamo massa critica ancora, questo è vero. Ma forse lo stiamo diventando, piano piano. Diamoci un po' questa apertura di speranza. Se dobbiamo per forza essere, sicuramente dobbiamo arrivare a essere massa critica, però il click nel cervello lo deve fare, dobbiamo farlo contemporaneamente al comune, alle istituzioni. Certo. Perché le sovvenzioni possono arrivare, chi ti permette di utilizzare la bicicletta in modo tranquillo per arrivare veloce dal punto A al punto B, senza preoccupazioni, senza piste ciclabili che si interrompono e cose del genere, lo può fare soltanto il comune. E quindi ci vuole un lavoro di una concertazione tra la massa delle persone, anche se non è ancora critica, e tutte le istituzioni, altrimenti se uno aspetta che lo faccia l'altro non so quando ne usciremo. Beh, basterebbe magari guardare cosa succede anche da altre parti dove questo passo l'hanno già fatto, esatto, per esatto. vederne l'importanza e il valore e il senso, no? E quindi forse un'amministrazione dovrebbe pensarci. Basta chiedere e poi aver fiducia, che queste sono tra quelle cose che poi una volta che sono avvenute tutti dicono: ah, ma vi ricordate che schifo che era quando c'erano i viali intasati? È sempre così sulla pedonabile, così sul fumo nei ristoranti. Esatto, pensavo proprio al fumo bello, nei ristoranti. Nessuno dice com'era bello il fumo quando si fumava al ristorante, forse il primo anno perché c'erano quelli abituati a fumare i pub, ma poi ora ci viene naturale, quindi smettiamola di pigliarci per il culo, che lo dicano se non possiamo o non vogliamo fare questo cambiamento perché ancora le lobby spingono in un'altra direzione, che ce lo spieghino che sono tutte cazzate come il wrestling e come il calcio, cioè non capisco perché, tanto si sa, nel senso, perché bisogna tenerlo nascosto. Ditecelo. Ditecelo, almeno, ditecelo. Vabbè, almeno ce ne andiamo a fanculo e diciamo vabbè, allora andiamo a na, cioè, ma perché vabbè. Era per prendere un po' di tempo prima di Kraftwerk, in realtà. Vai, siamo pronti? Sprolunghi a caso, con la fame che comincia ad arrivare. Sì, prima di Gomplotto c'era l'altro richiesto da Jacopo. Vuoi leggere prima te? Vuoi andare? Ti alzo un pochino la base. Sì, vai. Vai, c'è prima una cosa, una lettura del buon Gringo. Esatto, sì, una poesia, si chiama Sotto una piccola stella, di Wisława Szymborska. Ecco il mio, spero che si sia capito il nome, e mi scuso con la poetessa. Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia. Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria. Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge ogni istante. Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo. Perdonatemi guerre lontane se porto fiori a casa. Perdonatemi ferite aperte se mi pungo un dito. Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto. Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle 5 del mattino. Perdonami, speranza braccata, se a volte rido. Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d'acqua. E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia, immobile, con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto. Assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato. Chiedo scusa all'albero, abbattuto per le quattro gambe del tavolo. Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. Verità, non prestarmi troppa attenzione. Serietà, sii magnanima con me. Sopporta, mistero dell'esistenza, se tiro via fili del tuo strascico. Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado. Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque. Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna. So che finché vivo niente mi giustifica, perché io stessa mi sono d'ostacolo. Non avermene lingua, se prendo in prestito parole patetiche e poi fatico per farle sembrare leggere. Ma vogliamo dire chi te l'ha consigliata? Da dove arriva? Me l'ha consigliata un'amica, mi ha detto proprio: ma perché non prendete delle poesie di Szymborska? Io sono andato a cercare e ho trovato questa bellissima poesia che è veramente stupenda. Grazie, allora. Ringrazio Marianella che me l'ha suggerita. Grazie Marianella. Tour de France, Tour de France, Alpes et les Pyrénées. étapes, Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Capito che cosa dicono? Si chiama Tour de France, un altro brano che ci ha chiesto Yak. Sono perso però le parole di Kraftwerk in questo pezzo. Beh, mi sembrava quasi solo musicale, forse non abbiamo chiacchierato cose, e basta noi dei cazzi nostri, proprio, ma neanche di cosa parlare adesso nell'ultimo quarto d'ora, proprio dei cazzi nostri. Va bene anche questo, ci sta. Sì, ci sta. Non so se vuoi dire qualcosa dei cazzi tuoi, Nicco. Questo è il momento. Vai. Questo è il momento. Facciamo dei cazzi di Nicco. Cioè, non lo conosco, non lo conosco. Io Nicco lo conosco. Chiamalo, chiamalo. Lo Nicco, facciamo aspetta, dire in diretta. Aspetta, torniamo, Nicco. Nicco, ci sei? Vediamo se risponde. Non era. Ci stavamo parlando prima. È un altro tramutato. Ah, eccolo. Eccolo. È ritornato, Nicco. Nicco, scusa, con questa voce dall'oltretomba quasi non ti riesci. Vabbè, forse ti abbiamo rotto le palle, Nicco, perché volevamo sentire queste meravigliose parole. Grazie bene, sempre per questa bene, presenza Nicco. Spirituale, spiritica, che non, di cui non preso ci fai mai mancare, Nicco. Forse dovremmo, cioè siamo stati un po' stronzi, forse voleva un invito sì. speciale a partecipare alla puntata. Dai Nicco, sarà per la prossima. C'è quest'aura antagonista qui nel castello, no? Esatto, sì. C'è una rabbia verso il sistema, ma chissà perché. Ma insomma, oggi vediamo. Abbiamo parlato oggi di abbiamo tutto spaziato, e di più. Spaziato, dai. Oggi abbiamo parlato di tutto e di più. E domani c'è il Radio Contado. Esatto. Ricollegatevi di nuovo sulle stesse frequenze, sullo stesso sito, sullo stesso streaming. Ma visto che abbiamo tempo, vogliamo dire un po' che cos'è questa Radio Contado. Ma sì, certo. Oggi finalmente che siamo rilassati, che abbiamo ancora 8 minuti per chiacchierare. Impieghiamoli bene questi 8 minuti. Allora dice non parliamo di Radio Contado. Radio Contado, da non confondere con Radio Contatto, ma neanche con Radio nasce. Contagio. Sono tre sorelle. Tre entità diverse, sorelle ma diverse. Con delle voci simili. In nessuna però c'è Nicco. La presenza Nicco solo spiritica. Nel castello. C'è solo qua. D'altronde siamo in un castello medievale e come un castello medievale si rispetti, gli spiriti albergano in questo castello. È Nicolao XIII. Esatto, cioè... era un avo che è rimasto intrappolato. Non è passato, diciamo, a miglior vita. Ma sentiamo, Ercamice, visto che sei uno dei fondatori di Radio Contado, vuoi dirci... Io no, però volevo la piastrina, tipo quella dei militari. Non mi hanno dato nulla. Sei bastardi, veterano con la piastrina. Non posso neanche tornarci a frittole con questa non storia ti riconoscono, del COVID. Non ti riconoscono, senza piastrina di riconoscimento non ti fanno entrare. Ma c'era uno e un unico riconoscimento che comunque effettivamente poi non ti è mai stato dato camicia. Che si diceva all'inizio era la poltrona per camicia a frittole. Vero. Però ma per fortuna non è mai arrivata. L'ho trovata qui al castello però, due belle poltrone. Due divanoni. Due divanoni. Tutti i tuoi. No, Radio Contado ce l'abbiamo tutte nel cuore perché è stato il primo... Il primo esperimento della comunità di resistenza contadina Jerome Laronzo, ovvero Digiunino Clandestino Firenze, con la radio. Mamma Wombat ha offerto degli spazi alla nostra comunità per dare voce alla cultura contadina, soprattutto delle zone limitrofe a Firenze, ma ora è diventata di carattere nazionale perché chiamiamo... Noi si chiama tutti. Chiamiamo di tutti e di più, in realtà dalle più disparate, dalle alti Alpi Appennini fino alla Sicilia e alle spiagge della Maremma, e parliamo, o parlano a seconda di quando ci siamo anche noi, di contadinità. Di movimenti territoriali in lotta, di agroecologia, di mercati, di cibo, di olivicoltura, viticoltura. È proprio una bella trasmissione, ascoltatela domani alle 2:30 perché ci sono tanti consigli. C'è Gineprina forse domani, quindi ci saranno dei bei consigli anche su come... C'è Gineprina e... c'era la settimana scorsa forse, no, però... No, non mi risulta, ma se vuoi la possiamo chiamare, dobbiamo solo procurarci quella bella signora di Ginevrina. Forse non c'è Ginevrina. No, domani dovrebbe esserci Dino il contadino, probabilmente un collegamento... Ah, ecco, confuso con Dino. Hanno delle voci molto diverse, Dino il contadino e Ginevrina, però insomma è estremamente interessante entrare. Poi può darsi ci sia un collegamento forse con qualcuno del Movimento Senterras, perché abbiamo fatto un giro per capire in Italia cosa sta succedendo, ma abbiamo dei fratelli e delle sorelle come comunità di resistenza contadina, dei campesinos, dei compagneri brasiliani e vorremmo capire là cosa sta accadendo, insomma. Intanto si aggirano loschi figuri con il cappello di paglia che salutiamo da lontano. Ciao, cioè, non pinguino. Potete vederci fare ciao ciao pinguino, è il nome in codice. Nome in codice pinguino col cappello di paglia, però questo è una bellissima immagine, il pinguino e il cappello di paglia fa tanto contadino. Dobbiamo fare un wombato anche col cappello di paglia per fare il nuovo logo di Radio Contado. Esatto, potrebbe essere un'idea interessante. Ma stiamo partorendo idee, ragazzi, bravi, bravissimi. Questi 10 minuti, più che per i nostri radioascoltatori, sono proficui per noi stessi, per credere in quello che facciamo, per poterci autocelebrare e per trovare sicuramente degli spunti ascoltatori creativi. Tra l'altro in questo momento, quindi 10.000 ascoltatori, 10.000 10 tra parentesi mila chiusa parentesi ascoltatrici e ascoltatori. Se volete scriverci, andate su wombat.noblogs.org e trovate in prima pagina sulla destra l'accesso a un pad gratuito, che è scritto se vuoi comunicare con i Wombat eccetera eccetera, e vi si apre una pagina dove scrivete in diretta, noi vi vediamo scrivere ed è uno strumento molto simpatico, molto ganzo. Se volete scriverci comunque anche nella lista, nella mail di Wombat, è posta Wombat @ non mi ricordo cosa.net, ma lo ci trovate però facilmente. Sul sito devo dire sul che si trovano tutte le informazioni. Se volete scrivere nello specifico a Radio Contado. E se volete scrivere a Radio Contado, è Radio Contado @ questo lo sapevo, in siberia.net. Scriveteci anche perché in questo momento c'è tanta bisogna di radia. Di radio, e noi possiamo anche darvi dei buoni consigli su come fare una regia a casa, su tante cose belle. Vabbè, ma poi soprattutto noi, diversamente da quello che ci sta dimostrando il comune di Firenze con la sua non ascolto delle persone, noi che siete uno o tante o poche voci o milioni, noi siamo interessati a sapere a voi che cosa interessa, perché poi magari riusciamo veramente a trasmetterlo su queste frequenze, magari no, non tutto è possibile, però noi siamo interessatissimi ad ascoltare una, nessuna o 100.000 voci. Ah, senti eccitazione. Gli altri tempi. Io comincio ad avere fame, mancano pochi minuti. Io direi possiamo salutare con invece questa meravigliosa canzone di Davide Di Rosolini, che è Davide Di Rosolini. Ma ci racconti qualcosa di... Quest'oggi abbiamo messo tutte musica d'Orsay. Esatto, sì. Davide Di Rosolini è il suo cognome, ma anche il suo paese di origine. Vedi come funziona spesso nome, nome da Roma omen. In giù. Esatto, sì, nome omen. È un cantautore giovine che se volete ascoltare lo trovate tranquillamente a Rosolini. A Rosolini, sicuramente, per le strade di Rosolini, ma anche insomma sull'etere lo trovate. Lo trovate questa canzone... parla di complotti, è proprio sull'ultimo dei grandi complotti del nostro secolo, anzi sì, il primo grande complotto del nostro secolo, del nostro millennio, esatto. Quindi questo è buono, questo è buono. È proprio, esatto, sì, è materiale proprio. Materiale buono. Sì, no, bando alle ciance e agli scherzi, ascoltiamo Gomblotto di Davide Di Rosolini. Ciao ragazzi, sono il vostro Davide, sono anch'io chiuso in casa e sento tanta paura intorno a me, a noi, c'è tanta paura, ma non fatevi fregare dalla paura, perché la paura è una brutta emozione e abbassa le difese immunitarie, bisogna mantenere alto l'umore e io ho scritto questo testo che spiega la verità su questo coronavirus, l'ho scritto insieme a un grande della musica contemporanea, un sovversivo che oggi è uscito di casa per raggiungermi, e con noi Jay Hux. Grazie Jay, dammi il 5. Ah no, vero, scusa, a un metro di distanza. Grazie Jay, siediti pure lì sulla poltrona, faccio partire la base. Complimenti. botto, complotto, io mi sono rotto, complotto, complotto, sai quando me ne fotto. Fino al 3 aprile in casa e non so che cazzo fare. Ho abbandonato la chitarra, mi sono messo a rappare. Nessuno per le strade, quando mi guardo intorno mi alleno con la mano, mi devasto di film porno. Complotto, complotto, non posso coltivare, lo devo dichiarare. Se sparo una cazzata mi possono arrestare. Non posso andare nemmeno a dare il cibo ai cani. E in giro però 30.000 americani. Un complotto, complotto. Sono senza mascherina, senza vincoli alcuni. Sono sempre io, l'usulu cugiuni. Ama famiglia, capsi così ne scipazza. Io senza lavoro, un toculo senza sputazza. È un complotto, è un complotto. Saranno gli americani che ci voglio conquistare, ma l'economia italiana la voglio sotterrare. La via della seta con la Cina abbiamo firmato, ed è proprio per questo che ci hanno infettato. È un complotto, sì, è un complotto. Forse è stata Greta Thunberg che ci ha fatto ammalare, per ridurre di brutto l'inquinamento mondiale. In laboratorio un virus ha creato, infatti ragazzini nessuno infettato. Il referendum sul taglio dei parlamentari, con questa malattia oramai non si può fare. La Lazio che rischiava di vincere lo scudetto, e voi chiudiamo il calcio, avete detto un complotto, sì è un complotto. I miei amici sovversivi che mi vedono passeggiare mi guardano con rabbia, mi vorrebbero picchiare. Ognuno contro l'altro, tutti ci hanno messo. Non possiamo ribellarci, non sono fessi. È un complotto, è un complotto. Mi ero impegnato tanto per poter dimagrire, adesso in chiuso in casa c'ho i problemi a digerire. Posso uscire soltanto per fare la spesa, la faccio 20 volte al giorno e la cosa non mi pesa. Kinder Pinguì, lo zolo a capri sotto sale, bicarbonato di sodio, la fettina di maiale. È tutta una grande organizzazione che avvantaggia solo la grande distribuzione. È un complotto, sì, è un complotto. L'esercitazione americana è stata annullata, sarà vero oppure una notizia inventata, ma siamo chiusi in casa, quindi la verità nessuno con i nostri occhi, nessuno la vedrà. È un complotto, è un complotto, mi sono rotto, è un complotto, è un complotto, e ci sto restando sotto. È un complotto, è un complotto. Attenzione Sanfrediano, attenzione Contado, è riaperto il mercato contadino in Piazza Tasso, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Garantiamo cibo sano e locale, libero da pesticidi e contaminanti di ogni genere. Venite a trovarci, tutela la tua salute e sostieni i contadini. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Con questo nuovo provvedimento noi non avremo libera tutti.